Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. La solita strada, bianca come il sale. Ma è vero che sei tu la sorpresa di Ferrero? Che? È un po' di giorni che Ferrero dice... Che porta... quello della Nutella? No, quello della Sampdoria. Ah, ok. Guardare ogni giorno se piove o c'è il sole. Presidente Cassano, tornerà alla Samp un giorno? Magari. Magari, eh? Cioè, lei è pronto a fare l'offerta, Presidente? Riportami alla Samp, a Parma sto bene, ma riportami alla Samp, per favore. È stato molto carino Cassano perché mi ha mandato un messaggino di tanti auguri. Cassano è il vero, uno dei pochi campioni indiscutibili italiani. Andare via lontano, cercare un altro mondo, dire addio al cortile, andarsene sognando. Io amo Cassano, l'ho sentito anche oggi. Ci siamo cantati una canzone. E poi mille strade, grigie come il fumo, in un mondo di luci, sentirsi nessuno. No, non ho la più pallida idea. L'unica cosa che posso dire, bisogna chiedere al dottor Ferrero e soprattutto al dottor Romei della mia situazione. L'unica cosa certa è che io amo la Sampdoria e la sua gente. Non ce l'ho con Cassano, non ce l'ho con nessuno. Dipende quale strada prende uno. E lui dove vuole andare? E questo io lo devi chiedere a lui. O alla sua signora. E io che ne posso sapere? Io vado dove mi porta il cuore. Dopo questo inizio sdolcinato, mieloso, un po' zuccheroso, dedicato a Cassano che ha rescisso con la Sampdoria, quindi non è più nemmeno ufficialmente un giocatore della Sampdoria, Giorgio De Luca. Il nostro autore ha deciso così, con Gianmarco Ferronato e Edoardo Lavezzari in redazione. Pierluigi Pardo, già una biografia con Cassano l'ha scritta, si tratta di riscrivere l'ultimo capitolo. No, solo romanzi. Solo romanzi? Sì, buttiamo i romanzi, Beh, Cassano è un po' un personaggio romanzesco, che fa sì, adesso? Sì. L'ultimo capitolo ci vuole, Non possiamo mollarla lì così. Qualche minuto fa discutevo con un romantico a Milano, come dire, per il Baustelle, un signore che tra poco vi passo, proprio di Cassano e della sua carriera, e lui diceva che si tratta essenzialmente di un suicidio sportivo, ed è vero, però bello, secondo me è anche una storia di libertà, cioè alla fine poi, alla fine di tutto è chiaro, è evidente che avrebbe potuto vincere molto di più, guadagnare molto di più, portarsi a casa un sacco di trionfi, entrare nell'immaginario in una maniera molto diversa. Non l'ha fatto, se non l'ha fatto, secondo me è stata per una forma di libertà, per un limite sicuramente che ha avuto, nessuno discute, però io non mi sento, anche conoscendolo, non mi sento di giudicarlo, nel senso che penso che abbia fatto comunque le scelte. Io credo che esista un diritto allo sprecare il talento. Poi certamente tutti noi, quando parliamo con i nostri figli, con i nostri amici, con le nostre mogli, con le nostre fidanzate, con le persone alle quali vogliamo bene, invitiamo le persone a non sprecarlo questo talento, a utilizzarlo, a impegnarsi, a realizzare delle cose della vita, però io credo che poi in fondo esista il diritto a fare un po' come ti pare. E lui secondo me è una persona, per quello che so e che conosco, una persona complessivamente felice, che ha dei punti solidi nella sua vita, che sono quelli che ha cercato, una moglie, una famiglia, una rete magari piccola dal punto di vista numerico ma profonda di affetti, e una persona che quindi insomma sta bene. Certo, è ovvio che se parliamo a livello calcistico avrebbe potuto regalarsi e regalarsi molto di più. Quindi dice che è finita qui, no? No, io credo di no. Io l'ho sentito spesso in questi giorni e mi sembra molto motivato. E tra l'altro per quella che è la dimensione del nostro calcio e anche banalmente la classifica, che tolte purtroppo ai noi le prime posizioni... poi ormai è tutta scritta. Ma sì, è tutta scritta. Questo secondo me potrebbe anche magari far venire a qualche presidente, a un presidente. La voglia di divertirsi per qualche mese. Perché no? Perché no? Divertirsi significa accendere anche dal punto di vista mediatico i riflettori sulla propria realtà. Quindi, insomma, non lo so, non so niente, non ho notizie. No, non hai torto, nel senso che tanto c'è un sacco di squadre che non hanno nulla da dire o da dare, giusto per dare sei mesi di qualcosa di diverso al popolo, o come dici magari, tu, di accendere interesse mediatico. Sì, sì. La possibilità l'anno prossimo di avere un giocatore che, se poi, a parte che si è allenato quest'anno, però ovviamente il ritmo partita è un'altra cosa, che se l'anno prossimo si trova bene, ti può anche dare in termini tecnici qualcosa in più, perché della dimensione delle squadre medie, come ha dimostrato l'ultimo Cassano buono, quello della Samp prima e poi del Parma, Cassano, insomma, se c'ha voglia ancora dei punti te li dà. A un livello molto alto, no, a un livello molto alto non è più un'ipotesi, però a un livello, se non vedi, squadra media, medio piccola del campionato di Serie A, è un giocatore che può ancora fare la differenza. E chiediamolo agli ascoltatori: lo vorreste Cassano nella vostra squadra questo finale di stagione? 800 24 00 24, il numero verde. Andiamo con il traffico e poi su quanto abbiamo visto ieri sera con la Juventus, che si è tolta la scimmia del Milan dalla spalla in questo quarto di finale di Coppa Italia. Molto bello. Tutti convocati. Ma giusto, ci sono anche tanti altri giocatori che stasera non hanno giocato e che sono pronti e stanno bene per giocare anche domenica prossima. E vedrò in questi due giorni chi recupera, chi è più affaticato. L'importante è avere sempre questo atteggiamento, quindi comunque c'è da fare complimenti ai ragazzi che per il terzo anno in fila, per due anni hanno vinto. Quest'anno siamo in semifinale, vediamo di arrivare in fondo anche quest'anno. Ci siamo all'inizio del nostro percorso, però i ragazzi li vedo convinti, li vedo sempre convinti, e naturalmente non siamo ancora a livello della Juve, perché divario in classifica in campionato è notevole, ci hanno battuto questa sera, però la strada è quella giusta. E beh, ieri sera è toccata la Juventus 2-1 con Allegri, che ha riproposto la formazione tutte stelle, che sembrava uno scherzo, magari uno scherzo non è. Pierluigi Pardo ovviamente collegato a noi, ci sei Pier, no? Sì, sì, è chiaro. Eccolo lì, e c'è anche Beppe Iachini. Buongiorno. Salve, mister. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Sembrava uno scherzo, dicevo prima, uno sberleffo quello di domenica con la Lazio, con tutte le stelle in campo. E invece Allegri l'ha rifatto con il Milan, una squadra che quest'anno qualche problema gli aveva dato, mentre, ma poi ne parliamo, Real Madrid affonda con il Celta Vigo, sempre in Coppa del Re, quindi nella Coppa Nazionale. La Juventus si leva di dosso questo fantasma. Allora cominciamo a crederci nel sistema tutte stelle anche per il futuro a medio termine? Ma se ci sono le condizioni fisiche, la disponibilità da parte dei giocatori anche a sacrificarsi, a fare anche quel metro in più per il compagno, penso che i giocatori di qualità insieme possono sempre coesistere. Gli equilibri vanno ricercati, però mi sembra che in questo senso la squadra si conosca, abbia subito avuto un approccio giusto a questo cambio di modulo, quindi se poi potrà nel tempo essere nella continuità, essere una cosa magari riproponibile, questo lo dirà il campo, anche perché ora c'è anche l'entusiasmo di voler giocare insieme e c'è la voglia di stupire in questo senso, quindi poi ora bisognerà darci continuità. Sì, Pierluigi, un po' come fece Ancelotti con il centro, con il Milan stellare, no? A un certo punto li mise tutti in campo con il solo Gattuso, in questo caso c'è che dire, a fare da frangifrutti, da uomo di totale sacrificio, però il mister ha centrato il punto giusto, che è quella. Sono anche quelle parole di Eto'o che non dimenticherò mai, nell'Inter pluritotalata di Mourinho: quando mi chiedono di suonare tromba, suono tromba perché sono capace, quando devo suonare tamburo, suono tamburo. Ognuno deve rinunciare a un po' di suo. Sicuramente, io ieri ho incassato una piccola soddisfazione personale, perché l'altro giorno ci eravamo sentiti dopo Juve Lazio, e come sai, io questo tipo di esperimento lo considero una variante sicuramente, non lo schema base, ma io penso che lo vedremo spesso, e ieri l'abbiamo rivisto. Io credo che Allegri stia provando a veramente imbroccare questo tipo di strada. Poi è ovvio che l'assenza di Marchisio semplifica, no, da un certo punto di vista, questo tipo di scenario tattico, perché con Marchisio in campo, Marchisio li metti dentro, e quindi già col devi decidere tra Marchisio, Chiedira e Pjanic, chi tenere fuori, insomma. Però che questa strada la stia percorrendo Allegri mi sembrava evidente l'altro giorno e oggi ne ho ancora più contezza. Oltretutto l'ha utilizzata in due partite non banali. Esatto. Perché Juve-Lazio era un passaggio importante contro una buona squadra dopo aver perso a Firenze. Juve-Milan era un match scontro diretto di Coppa Italia. Per cui, insomma, io credo che ci creda, scusa il gioco di parole, ci sta credendo e secondo me può portare anche dei risultati. Poi ovvio che vedi a un certo punto nel finale il Milan 10 contro 11 avere una sua pericolosità e c'è subito chi si alza e dice però attenzione all'equilibrio, sì. Però è vero l'equilibrio, però è anche questo tipo di atteggiamento anche quello che ti ha consentito di fare una partenza per la seconda settimana consecutiva top, no? Nei primi 20 minuti, quindi secondo me al momento l'idea sta funzionando. Sì, l'idea sta funzionando, ma Beppe Iachini vuol dire anche che i giocatori stanno con Allegri, che sono disposti all'estremo sacrificio. Avevi dei dubbi? Avevi dei dubbi? Se hai. Questo non c'era dubbio, insomma, anche perché i risultati poi quando vinci titoli, scudetti insieme con un gruppo squadra è chiaro che si rafforza ancora di più il rapporto con l'allenatore, la squadra risponde sempre in campo quando c'è qualche magari comprensibile defaianza, diciamo così, un risultato negativo, subito dopo c'è una risposta molto importante da parte di tutta la squadra, quindi questi sono tutti fattori che fanno pensare vogliono dire che sono tutti con lui, come erano tutti con Ancelotti quando costruì quel Milan per cui gli diedero del pazzo e che poi lo portò alla Champions League. Ma era Pardo che faceva Mughini o era Mughini? Aspetta, sono Mughini qua che vi vuole parlare. C'è il signor Genta che vuole sapere cosa pensi della Juve, è piena di attaccanti, questa Juve pentastellata, quadristellata, dai, fammi fare bella figura. Pronto? Buongiorno Gianpiero. Allora, io penso questo, che né una né due partite costituiscono un romanzo, d'accordo? Ci sono stati, per quanto riguarda la Juve, due tentativi andati in porto, ma io penso che sia complicato per il gioco che in Italia siamo abituati a pensare, mettere davanti 4 o 5 individui in cui la fase dell'attacco, della proposizione, dell'offesa, della penetrazione sia molto marcata. Certo. Ben inteso, di questi 4 o 5 individui almeno due è gente che torna indietro a faticare, non dico Mandzukic che è uno dei più grandi difensori d'Europa, ma anche Cuadrado. Chiaro. Quindi staremo a vedere, certo, con il bendicio di gente che la Juve aveva sarebbe stato avaro puntare su due attaccanti e mezzo per tutto il tempo, e poi in Europa non si può far così. In Europa le grandi squadre quando ti attaccano con 6 uomini. Certo, Pardo però non è d'accordo, il tuo amico Pardo non è d'accordo, dice che può essere un esperimento proprio in chiave europea dove conta la qualità. Io ero convinto quando ho visto la formazione contro la Lazio che fosse uno sberleffo di Allegri, uno sberleffo livornese a tutti i detrattori che aveva detto Allegri ci hanno già fatto vincere lo scudetto della critica. Certo. Io la pensavo così. Delle critiche. Sì, delle critiche. Lo scudetto, da quante critiche abbiamo ricevuto. Io ti ripeto, sono un po' cauto perché, sai, non tutte le partite poi riescono come è riuscita quella con la Lazio, che dopo 10 minuti gli erano messe dentro 2. Sai, metti che ci sia una partita in cui fatichi, in cui l'avversario ti blocca tutte le vie, parte in contropiede e magari ti fa un golletto. No, io la ricetta magica non esiste. La ricetta magica la offre semplicemente il fatto che i tuoi giocatori in campo prendano la palla prima degli altri. Questa è la ricetta magica, perché se tu schieri in campo 11 volte Messi, 11 volte Maradona, ma sulla palla arriva prima l'avversario, c'è poco da discutere, c'è poco da discutere. Contro la Fiorentina c'era poco da discutere, quelli arrivavano prima sulla palla. Chiaro, hai capito? Grazie. Evviva. Grazie, buon lavoro. Gian Piero Mughini. Io torno a Beppe Iachini per far notare come sarà questo bellissimo Juventus-Napoli ad arricchire una primavera che è intensissima. Prima Giorgio Luca mi ha stampato i possibili calendari e c'è una ridda di partite da fare impressione, perché si comincia domenica 19 febbraio con Chievo-Napoli, poi c'è il mercoledì successivo Real Madrid-Napoli di Champions, quindi presumibilmente Chievo-Napoli andrà anticipata, poi c'è domenica 26 febbraio Napoli-Atalanta che andrà anticipata, mercoledì 1 marzo dovrebbe esserci Juventus-Napoli, insomma un intruglio da mal di testa. Però il Napoli in questo momento sta benissimo, Beppe, e ha anche una faccia europea, e non si illuda che il Real Madrid sia quello che è andato fuori con il Celta Vigo, però è una squadra che può far male al Real Madrid. Ma sicuramente Napoli, ma anche la stessa Roma, sono squadre che possono insidiare il primo posto, anche se ad oggi la Juventus è sicuramente favorita per la sua storia recente, per quello che ha saputo fare, ha saputo costruire in questi anni come società e gruppo tecnico di lavoro, quindi però il Napoli è una squadra che sta facendo molto bene nonostante un'assenza molto importante del suo centravanti Principe, no? Che doveva essere un po' il sostituto di Higuaín all'inizio stagione, quindi, e adesso il Principe è diventato Mertens. Eh sì, direi di sì, si è trovata questa soluzione in casa con imprevedibilità, e quindi direi che Napoli può essere una squadra che può fare molto bene anche in Champions, ma la Champions appunto arriva presto, e questa toglie energie, toglie magari ti provoca qualche infortunio, quindi anche il campionato bisognerà vedere alla Champions come le squadre reagiranno alle fatiche della Champions. Sì, però io sono dell'idea, Pierluigi, che Napoli deve andare incontro a queste partite, a questa serie incredibile di partite con il sorriso sulle labbra. Con la voglia di esserci. Ma io ho una voglia di portarmi De Luca al Bernabeu, non però Bernabeu, magari adesso ci vado, però porto Juve Paris Saint Germain, ma mi sa che è il compagno De Luca, mi sa che faccio questa botta di matto, perché Real Napoli è una partita pazzesca. Il Napoli secondo me non solo va a giocarsi una grande notte, no? una grande serata, quasi di debutto a certi livelli, perché ha fatto cose serata di gala, dai, di quelle da smoking, ma non solo ci va secondo me a testa altissima, ci va con la possibilità di far del male al Real Madrid, deve andarci con la giusta attenzione, perché quello che mi fa paura è solo una cosa, è solo l'abitudine, mi fa paura solo il fatto che nel calcio respiri dei valori nella storia dei club, delle cose difficili da tradurre a parole, sì, ma che esistono. Il Real Madrid quel tipo di humus, quel tipo di atmosfera lo conosce benissimo, più sì, di qualsiasi altra club in giro per l'Europa. Il Napoli lo conosce un po' meno. Questa è l'unica paura che ho, perché dal punto di vista tecnico io penso che sia una partita giocabilissima. Il Napoli sta giocabile, e anche con la pressione che sta addosso al Real Madrid. È vero, tu mi dici che il Real Madrid è abituato a queste pressioni, però con la pressione che sta, è per quello che ti dico che il Napoli deve andare incontro con lo smoking e con il sorriso migliore a questo doppio confronto. Deve andare con lo smoking, ma con la calzamaglia sotto, non so come dirti, con la divisa da battaglia sotto, perché con la mimetica, però è giocabile. Oggi è giocabile questa partita, e credo, visto che poi non manca più molto, mancano ormai 20 giorni, anche meno, insomma ci siamo, De Luca, da me, sì, fa il segno così, pollice alto. Grazie, De Luca. Io volevo mi tocca chiedere, fare un'altra considerazione con Beppe Iachini prima di salutarlo, che magari gli farà un po' male, però il Palermo che oggi saluta Lopez, che ha mandato via Corini, Beppe, ormai sembra una caricatura, è una storia d'avant spettacolo ormai. Vabbè, dispiace, io lo scorso anno sono andato via dopo 12 partite, a metà classifica eravamo, quindi dopo una vittoria, quindi diciamo che è sempre in questo momento una situazione ancora complicata, ancora più complicata, perché la classifica è quella che è, mi dispiace tantissimo, insomma, per tutte le componenti, l'ambiente, la società, i giocatori, insomma, che peraltro insomma vivono questa situazione, ma va così, insomma, lì sai, io ho avuto la fortuna di rimanere, di fare il record di presenza quasi tre anni. Ma ti dispiace, dimmi la verità, ti dispiace anche per Zamparini? Sì, ma no, certo che insomma probabilmente la situazione insomma porta, non so, bisognerebbe quella di quest'anno viverla dall'interno, ecco, per capire cosa sta accadendo, però penso che la mancanza di risultati poi faccia venire dubbi a maggior ragione, insomma. Un conto è quando ci sono i risultati, allora è diverso, ma quando non ci sono era difficile farlo, era facilmente prevedibile che finisse così, insomma, perché tutti dicevamo è una delle squadre più deboli, forse la più debole della Serie A, infatti stanno dimostrando questo, perché senza giocatori non vai da nessuna parte. Grazie Beppe. Sicuramente. Ciao Beppe. Un abbraccio, Luigi, ciao, buon lavoro. Ciao. L'unica consolazione secondo me sta nel famoso paracadute. Mi sembra che dal punto di vista sia economico, dal punto di vista tecnico, chi va in B retrocedendo dalla Serie A comunque abbia un vantaggio economico importante. Palermo comunque le risorse ce l'ha, e quindi l'unica cosa che mi viene da pensare è questa, che possa essere un'occasione per una rinascita ancora più piena, perché sennò veramente per il resto è una follia. La stagione del Palermo è stata una follia. Ma dire l'ultimo anno e mezzo del Palermo è stata una follia. Si è salvato l'anno scorso veramente per il rotto della cuffia, dove abbiamo 10 allenatori. Insomma, io Zamparini penso che sia una persona intelligente, perché poi sai, uno alla fine... No, io penso anche che abbia fatto due conti. Beh, due conti che voglia retrocedere, no. No, due conti però per dire, paracadute ce l'ho, ora non ho i soldi per fare mercato, mi gioco questa stagione così come va, ovviamente è andata male e andrà male perché il Palermo è già di fatto retrocesso, a quel punto diventa quasi, ripeto, una storia da spettacolo continuare a sostituire gli allenatori, perché tanto il prodotto non cambierà. Ci fermiamo per la borsa, 800 24 00 24, il nostro contatto, ci sentiamo subito dopo. Tutti convocati. Sono Giovanni Minoli, tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, eh. E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. I faccia a faccia, le inchieste, dentro la notizia e gialli della storia. Poi i libri, gli appuntamenti, il cinema, tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni e critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Tutti convocati. Io direi voci di ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, lo ricordo, per SMS e WhatsApp. Non sono d'accordo con il sarcastico scritto di un ascoltatore anonimo: il Napoli contro il Real, più che lo smoking si metterà il pannolino. Non credo assolutamente che a Napoli servano i Pampers. Non credo. Assolutamente. E speriamo di no, veramente. No, ma è anche perché è un'occasione unica, è un'occasione meravigliosa, dai. Lo diceva anche Gullit l'altro giorno. Napoli in questo momento è una delle facce più belle dal punto di vista dell'immagine del calcio italiano. Cioè, oggi il Napoli ha una qualità di gioco, al di là del complimento, forse anche esagerato, non lo so, di Ambrosini, che tanto ha fatto discutere, sì. Però è oggettivo che il Napoli ha una qualità di gioco, una filosofia, un'impostazione di calcio molto europea, molto bella, molto divertente. Verissimo. Quindi è un tipo di calcio che è bello esportare, sono come i nostri vini di grande qualità, come la nostra alta moda, insomma, siccome sono passati anni nei quali nel calcio non è che abbiamo proprio fatto il massimo rispetto al passato, avere una squadra che non solo fa risultati ma che gioca anche bene a pallone, anche la Roma gioca bene a pallone, anche la Juve sicuramente, però insomma il Napoli ha una continuità da questo punto di vista che è molto, molto positiva, e insomma, speriamo di vedere il Napoli di Lisbona. Sì, poi cioè, sapete che noi siamo per il diritto sacrosanto di ognuno a fifare o a gufare, perché ancora non si questo, domanda, questo, quindi, a questo lo difenderemo fino alla muerte. Assolutamente sono stralegittimati di fare Real Madrid, però insomma io non possono anche scrivere Napoli di pannolini e dintorni. Tra poco torniamo a parlare anche sul versante spagnolo. Intanto Maurizio, buongiorno. Buongiorno, sono in linea? Sì, dica. Innanzitutto volevo porgervi saluti, io essendo stato a suo tempo convocato ho avuto il piacere di conoscerla, la saluto. Anche io la saluto. Io volevo fare una semplice osservazione. Ieri sera abbiamo assistito a una bellissima partita di calcio, secondo me, a mio modesto parere, durata 94 minuti, in cui nel secondo tempo in modo particolare abbiamo visto l'orgoglio di una ottima squadra guidata da Montella che cercava di recuperare un risultato seppur in inferiorità numerica. È una squadra che orgogliosamente, con estrema dignità, non solo tentava di mantenere il vantaggio, ma tentava addirittura di aumentarlo. Martedì abbiamo assistito a una partita che mi fa capire perché non siamo appetibili dal punto di vista televisivo a livello europeo, perché abbiamo assistito a 20 minuti di vergogna, che dei quali li avevamo già avuti precedentemente a Firenze tra Juventus e Fiorentina. Il nostro calcio troppo spesso è quello, sono i pupi, lo spettacolo dei pupi, gente che si rotola per terra senza nessun motivo. Quindi mi dispiace contravvenire con Pardo quando dice che questa immagine del Napoli è estremamente europea, perché martedì non ha dato veramente quella sensazione. Non lo so, se chiama in causa Pardo, risponde Pardo. Sì, dipende da che cosa diciamo, se parliamo delle simulazioni posso essere d'accordo. Io anche su Reina e Silvestre ho detto quello che pensavo, cioè che Reina in Napoli-Sampdoria ha esagerato e si è lasciato andare più del dovuto e non è stata una bella immagine, e non cambio idea per questo, cioè quando ci sono cose belle commento le cose belle, come sono cose brutte commento le cose brutte. In generale penso che il Napoli abbia una qualità del gioco e un'impostazione, una filosofia del gioco che è assolutamente all'altezza. Poi se le simulazioni fanno Reina o Cagliacon, che non sono esattamente neanche di fuori grotta, cioè, vuol dire che non è un problema del passaporto, di dove sei nato. Il finale di partita contro la Fiorentina sicuramente è stato carico di polemiche, arroventato. Poi attenzione, non è che dalle altre parti del mondo sia tutto tranquillo, sereno, cioè, non è che nel calcio inglese non ci sia violenza in campo, o non ci siano problemi. Non che nel calcio spagnolo non ci siano le simulazioni. Sicuramente sulla simulazione io sono d'accordo con l'ascoltatore, penso che sia d'accordo con me più che altro, che ci vuole più sensibilità. Cioè in Inghilterra cheating, cioè simulare, è considerata veramente una cosa, un marchio d'infamia. Un marchio d'infamia, sì, una cosa proprio immorale per il gioco, che contravviene completamente allo spirito sportivo, e in questo sicuramente loro sono più avanti rispetto a noi. Noi siamo il paese di Machiavelli, siamo un paese sicuramente più contorto, più abituato ad arrovellarci e a usare la furbizia. Sappiamo che la furbizia è una cosa, è una qualità, ma oltre un certo limite diventa anche un difetto, È un discorso molto lungo, ma non ridurrei comunque Napoli-Fiorentina a quella al teatro dei pupi. Che il Napoli giochi bene, e anche la Fiorentina tra l'altro, insomma, mi sembra indiscutibile, ecco, che il Napoli sia una squadra che esporta un buon calcio mi sembra proprio indiscutibile. Antonio, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Pardo è simpaticissimo, complimenti. Certo che lo è. Grazie. Una cosa, Cassano secondo me è un valore aggiunto per qualsiasi squadra, chiunque lo prenda. E se Cassano avesse avuto il carattere di Umbrienza. Sì, ma non ce l'ha, non ha il carattere di Umbrienza, ma non ha il carattere, aveva le famose quattro palle, Era un flipper, però non, insomma, io Cassano, ha ragione Pierluigi, sarebbe qualcosa da aggiungere ad un finale di campionato in cui ci prepariamo a vedere le prime della classe che battono tutte le squadre della pancia della classifica, che non hanno niente da chiedere, e quindi se qualcuno vuole fare un po' di cinema, vuole fare un po' di show, perché non Cassano? Esatto. Insomma, se qualcuno vuole fare un po' di cinema, Cassano può essere una cosa preziosa. Sì, al fatto che il ragazzo è difficile, perché ha ritirato dalla Cina, perché aveva un'offerta dalla Francia e però non ci ha voluto andare, perché è storia, insomma, ad agosto c'era la maglia del Palermo, ma lui sperava di riuscire comunque a rimanere alla Samp perché era legato all'ambiente, quindi insomma non è semplicissimo. Però no, ma faccio un nome a caso, se il Cagliari e il Chievo avessero voglia di divertirsi per sei mesi, perché non Cassano, tanto sono salvi, non hanno nulla da chiedere, nulla da domandare, facciano un regalo di estetico, diciamo così, ai loro tifosi. Pier, facciamo un salto proprio in Spagna, perché ieri è crollata la Casablanca, almeno in Coppa del Re. Maglio, balón largo para Iago Aspas. Aspas que intenta hacer jugada por la derecha, la punta atacante. Aspas para el Chelo. El Chelo para Dani Vaz. Dani Vaz puso la pelota en la zona de peligro. Atención. Lanzamiento y gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol del Celta de Vigo. Y atención, porque ahora, a 5 minutos de llegar al minuto 90, se complican las cosas para el Real Madrid. Per la cronaca, l'altro giorno discorso con Filippo Maria Ricci è diventato una sorta di coito interrotto, perché ci ha piombato in studio Ruud Gullit in anticipo. Lo ripigliamo da qui, anche con ulteriori elementi a disposizione. Filippo? Buon pomeriggio, certo, anzi, adesso siamo più ricca la discussione. E come no, anche perché, insomma, Celta Vigo Real Madrid 2-2. Lo sapeva, per questo è arrivato, perché sapeva che certo, l'avremmo riaffrontato. Addio al triplete. Che succede al Real? Perché, vabbè, Siviglia, Jovetic, insomma, il Real fino a 20 giorni fa era padrone incontrastato. Sì. Adesso, sì. Adesso una vittoria su 5. De Luca, Giorgio De Luca, che andrà al Bernabeu con un biglietto che adesso in qualche modo troveremo, e dico, può crederci? Certo che ci può credere, ma chiaro, insomma, il si sapeva, questi sorteggi, no, di quando li fanno a dicembre per poi giocare a febbraio, sono sempre divertenti, perché no, uno arriva in grande forma e poi si ritrova al momento della partita in uno stato di forma completamente diverso. E è già successo e si sta ripetendo. Vediamo domenica sera, per esempio. Domenica arriva al Bernabéu la Real Sociedad, che è una squadra ottima, e alta classifica, e in grado di mettere in difficoltà questo Real Madrid, che ha una difesa completamente rimediata, perché senza i terzini sono rotti, tanto Carvajal come Marcelo, e tu hai voglia di essere galattico e avere tanti giocatori, ma se poi ti mancano i ricambi, la rosa diventa improvvisamente umana, se non ristretta. E ieri sera è successo questo. C'è questo povero Danilo, pagato 35-39 milioni, che è completamente in uno stato di depressione assoluta, 2 autogol nelle ultime 4 partite, il Bernabéu lo fischia, però non c'è nessun altro, e allora si gioca con lui. Ieri ha giocato Casemiro centrale, in coppia con Sergio Ramos. E punto, una vittoria su 5, vediamo come va a finire, è il momento della verità per Zidane, sì, il Napoli sta alla finestra, insomma, manca ancora tempo. Manca ancora un po', infatti. Io tipo l'altro giorno dico, se questa partita col Celta fosse stata col Napoli ci saremmo divertiti, però siamo arrivati 2 settimane. Ma invece era con il Celta in Coppa del Re. Filippo, fermiamoci un attimo per il traffico e poi riprendiamo questa discussione, anche perché c'è un uragano di critiche, mi pare che oggi sia scatenato soprattutto su Cristiano Ronaldo. Traffico. Tutti convocati. Storming su Cristiano Ronaldo, mi pare, sui media spagnoli di oggi, no, Filippo? Sì, ma è più i social di cui parlavamo l'altro più giorno. Poi dopo vi dico anche una cosa che è divertente, però prima parliamo di Ronaldo, che no, sono più i social, sui giornali, a parte Barcellona, che però ormai qui è talmente palese, cioè godono proprio, insomma, tanto da una parte e dall'altra, quando la squadra di appartenenza, diciamo, contraria, perde i propositori, la goduria e basta, ormai dichiarato, va così, non è più giornalismo, si tifa e va bene. No, Ronaldo viene criticato, per me, in maniera, secondo me, non del tutto giusta. È chiaro che ci si aspetta, primo, che risolva tutte le partite da solo, ieri comunque ha segnato un grandissimo gol su punizione, ha preso un palo, una traversa nella stessa azione, è stato sfortunato, ha sbagliato un gol. Ci sta, non è la colpa, non è certo sua, però lui può anche diventare capro espiatorio, visto che è il capo indiscusso di questa squadra, visto quel contratto che ha siglato, cose. Le critiche ci stanno, però c'è gente che lavora meno di lui, cioè ora questo Isco che piace tanto al Bernabéu, cioè, sono mesi che non si vede, la settimana almeno, cioè, dal derby è sparito. Benzema alti e bassi, e appunto non viene. Ieri c'era questo Asensio, un altro fenomeno, non ha combinato niente. Ronaldo qualcosa fa, secondo me. E poi chiaro, è Ronaldo, per quello che guadagna, per quello che significa, verrà sempre criticato, perché giustamente lui lo sa, fa spallucce, però insomma non si può pretendere nemmeno che ogni partita tiri la carretta, e ieri quasi se la fa, perché sì, insomma, sì. Senti, ma dire che il Napoli a livello di 11, diciamo che è più forte il Real, ma a livello di rosa, che il Napoli forse è più completo e più profondo del Real Madrid, è una bestemmia? No, beh, rebus sixtantibus, come direbbero i latini, no? No, allora tu devi guardare adesso, non in questo momento, perché appunto se noi parliamo di 11 titolari, ovviamente non c'è storia, no? Cioè, l'11 di Milano della finale di Champions è superiore a quello del Napoli. Però in questo momento, appunto, tu non hai due terzini. Bene, allora chi ci metti? Ci metti Coentrao e Danilo, che per me non, cioè, nel Napoli non giocherebbero, per dire. E manca Bale, adesso hanno trovato Lucas Vázquez, che funziona, va bene, diciamo, è una figura tipo Callejon, se vogliamo, no? E poi però io Napoli. Prendo Callejon, scusa, fra Lucas Vázquez e Callejon. Esatto, prendo Callejon, comunque, sì, comunque Lucas è bravo, però esatto, e sono con te. Dopodiché, ecco, tutte queste mezze punte, questo frullare di mezze punte, non sono all'altezza, né Isco né James, con tutto quello che erano e che hanno significato, quello che sono stati, Asensio lo stesso, per cui sono, sì, nell'ampiezza della rosa, diciamo, i rincalzi non sono all'altezza. Spesso è così, e poi è difficile fare il rincalzo di queste grandi squadre, perché magari giochi poco, ti chiedono tanto. Però no, per me non è una bestemmia, ed è per questo che, soprattutto se non torna, perché sai, se non tornano i terzini, e con Pepe fuori dall'inizio di dicembre, allora Varane e Sergio Ramos devono fare i centrali, quindi a destra per esempio o ci va Danilo o ci va Lucas Vázquez, l'altro è Nacho, che va bene, vediamo domenica sera come finisce la Real Sociedad, una squadra che ecco, attacca bene, sempre rebus sixtantibus, ragazzi, io vi chiedo a Pardo e a Ricci, il fattore Bernabeu, che è in questo momento infuriato con il Real Madrid, può diventare un qualcosa di importante anche per il Napoli, oppure ci allarghiamo a dismisura verso altri confini? No, attenzione, Bernabeu è uno stadio pesante e i giocatori del Madrid lo sanno benissimo. Se le cose vanno bene è tutto a posto, se le cose non vanno tanto bene il Bernabeu diventa un problema, l'abbiamo visto l'altro giorno col Malaga, cioè, qua fischiano, giustamente Zidane è stato un grande, dice no, ma il pubblico è così, dice mi fischiavano anche a me, io ho detto no, insomma, fischiare Zidane ce ne vuole, però lo fischiavano, quindi fischiano Ronaldo, fischiano Danilo e via dicendo, fischiano Ancelotti nonostante la decima, qua funziona così, quindi se la partita si mette male per il Madrid e quindi bene per il Napoli, il Bernabeu diventa un'arma in più sicuramente, però è chiaro che devi avere anche lì ci vuole la squadra, cioè il Napoli deve far sì che la partita si metta male per il Madrid, ovviamente sì, non è semplice, non è che adesso stiamo dipingendo qua un quadretto, no, idilliaco, per cui vengono qui e tutto a posto, no, però ci sono delle condizioni che possono diventare favorevoli, questo senz'altro. No, ma possiamo anche illuderci, Pierluigi, che appunto rebus sixtantibus, cioè che il Real sarà questo e che il Napoli sarà comunque questo qui, da qui a là? Proprio per le ragioni che dicevi tu prima, no? Cioè Real Madrid ha nel DNA partite di questo tipo. Io sono con tutto che certamente il Bernabeu è uno stadio pesante e che da un certo punto di vista il Real Madrid ha più pressione del Napoli, nel senso è chiaro che il Real Madrid ha nella Champions League, nella Liga dei Campioni, il suo territorio naturale, no? La sua terra promessa, la sua riserva. Quindi di calcio è ovvio che ha più pressione addosso, però è anche vero che è più abituato a gestire la pressione, quindi io torno al discorso di prima, a me la cosa che fa paura, forse l'unica cosa che fa realmente paura, l'unico motivo per il quale ti direi oggi 51% Real, 49% Napoli, è questo, cioè questo elemento qui, è l'abitudine che a Madrid c'è nel maneggiare questa roba, questa roba che sono le partite speciali. Questa è l'unica cosa che secondo me può far pendere la bilancia lievemente a favore del Real, ma dal punto di vista tecnico e del momento, secondo me siamo lì, il Real ha qualcosa di più sicuramente negli 11, nel senso che ha dei giocatori più decisivi. Insomma, Cristiano, voglio dire, Cristiano, di che stiamo parlando? Cioè, Sergio Ramos pure. Sì, Sergio Ramos è un discussione. Banalmente Albiol, che conosce quella, che è un ottimo difensore del Napoli, che conosce benissimo quell'ambiente per aver giocato sia a Valencia che a Madrid, per aver giocato in nazionale, tra l'altro aveva una meravigliosa statistica, credo sia stata poi interrotta, di vittorie, di partite senza perdere con lui in campo, però di fatto Albiol è stato sempre un attore non protagonista, non nei trionfi della nazionale spagnola di questi anni, quindi già questo ti dice che ovviamente la superiorità tecnica del Madrid c'è, però dal punto di vista del momento la mia sensazione è che oggi il Napoli non sia inferiore al Real Madrid, anzi sta meglio del Real Madrid, quindi poi alla fine il combinato tecnico delle due cose mi fa pensare a due sfide molto equilibrate, dove la differenza la potrebbe fare proprio questa maggiore abitudine al Real Madrid, ma è tutta da giocare, è roba bellissima, perché non solo vai a giocarti una partita così suggestiva. Sì, vorrei che fosse domani, vorremmo non aspettare più. Pierluigi, io ti saluto, ti ringrazio, ci sentiamo domani. Saluto a tutto il mondo. E entra con ancora con Filippo 40 secondi per inquadrare Burkina Faso, Tunisia, Senegal, Camerun, Repubblica del Congo, Ghana ed Egitto, Marocco, che sono i quarti di Coppa d'Africa. Senegal l'abbiamo dichiarato, mi sembra, su questa onda. Senegal favorito, mi piace molto, e lì dovremmo andare bene. Burkina Faso, Tunisia aperta, mi piace il Burkina Faso. La partita più bella veramente è Congo-Ghana. E poi ci sarà, vediamo l'Egitto di Cooper, che io vedevo come finalista, no? Me l'ha anche dichiarato, è stato stupendo nella sua intervista con me, ha detto vabbè, va bene anche una finale, ne ho perse già tante, veramente un grande Cooper, e quindi vedo una finale Senegal-Egitto, però il Marocco ha l'allenatore che ha vinto due delle ultime tre Coppe d'Africa, Hervé Renard, e quindi ha buttato fuori la Costa d'Avorio, e quindi è una squadra da tenere, da tenere d'occhio, però così. Sarebbe divertente vedere Cooper in finale, così. E magari perdere ancora, perché siamo maligni, peggio della strega di Bianca, peggio della strega di Bianca Nera. L'ha detto lui, certo. Aver perso la finale in Sud America, in Europa e adesso anche in Africa. Sarebbe una sorta di contro record mica da ridere. Ciao Filippo, alla prossima. Ciao Phil. Ciao. Grazie, vi do appuntamento subito dopo il GR, state lì. Tutti convocati. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Legno Edilizia, Fiera di Verona dal 9 al 12 febbraio. Partirei chiedendo scusa per un gruppo tifosi dietro la nostra panchina, con chi ho litigato, inizio secondo tempo, onestamente apposta, provando a creare un ambiente, diciamo, molto teso, molto casalingo, e alla fine siamo riusciti, non abbracciati ma quasi, a distanza. Non solo per due punti, ci voleva una vittoria contro una squadra con queste caratteristiche, una squadra con estrema fisicità, estremo atletismo e estrema durezza mentale, per far vederci che siamo in grado di rispondere, perché senza queste caratteristiche base non si fanno grandi cose in Eurolega. Non è un caso che per una notte storica vissuta da Milano in Eurolega torni su queste onde una delle voci e delle penne più conosciute della storia del basket italiano, Luca Chiabotti. Ciao Luca, che piacere. Ciao a tutti, grazie. Ciao. Ieri sera serata magica per il forum, per tutti quelli che erano lì, e poi è tempo di abbracci, Repesa metaforicamente abbracci tifosi con cui si era scazzato. L'Olimpia rimane ultima in classifica in Eurolega, è qualcosa di impossibile e incredibile, visto quanto mostrato ieri sera, stracciato l'Olimpia Kos, segnando 99 punti alla difesa migliore d'Europa, una squadra che era terza in classifica, che era reduce da 8 vittorie nelle ultime 9 partite, insomma, se vogliamo aggiungere qualcosa aggiungiamolo pure, e nel segno di un italiano che sarà sgraziato finché vuoi, ma è di un'efficacia pazzesca, che si chiama Pascolo. Ma sai, io credo che non ci sia niente di particolarmente sorprendente nel fatto che Milano possa battere l'Olympiacos in casa. Mi sembra sorprendente l'ultimo posto e lo schifo che ha fatto Milano in Eurolega fino adesso. Bravissimo. E quindi direi che non c'è nessun motivo tecnico o di budget per il quale Milano non potrebbe essere adesso al posto del Russafaca, del Baskonia, della Stella Rossa, con per lottare serenamente per i playoff. È un po' tardi e lo stesso discorso vale per Dada Pascolo, uno dei migliori giocatori l'anno scorso di Eurocup, che quando gioca, se gli si dà un minimo di fiducia, è un ragazzo che riesce a rispondere quasi sempre, perché ha delle caratteristiche uniche anche in un panorama, diciamo, internazionale, per cui non sarà sempre come ieri sera contro un Olympiacos, diciamo, un po' svagato, mettiamola così, in difesa, ma brava Milano a andarlo a stanare, perché se avesse giocato come nelle altre partite, tenendo la palla, non muovendola, avrebbe coperto le magagne della difesa, invece le ha esaltate. Quindi speriamo che da questo momento ci sia la consapevolezza, magari tardiva, ma la consapevolezza che si può competere senza andare a cercare storie, appunto, che gli altri sono sempre più ricchi, più bravi, più belli. Ma anche perché non è così. Anche perché non è così. Dimostra. Vogliamo che non parlare è così di fatturati come fanno molti allenatori di calcio? Io non me la sento, perché il fatturato di Milano può stare dove stanno quelle che andranno ai playoff. E tu hai detto la più grande verità, cioè la partita di ieri sera non giustifica lo schifo delle 10 vittorie sconfitte consecutive di Milano, che l'hanno condannata lì dov'è, e quindi allora te la giro: dalla serata della grande magia può diventare la serata del grandissimo rimpianto. Sì, lo sarà, soprattutto se non si continuerà così, nel senso che continuando così ci sarà un enorme rimpianto. La classifica dice che per stare bassi Milano deve vincere 9 delle prossime 11 partite, che con un calendario peraltro anche tutto sommato favorevole, quindi però, diciamo, mi sembra impossibile pensare che vinca 9 delle prossime 11 per arrivare al 50% di vittorie e sperare forse di andare ai playoff. Però certamente, giocando come ieri, il rimpianto diventerebbe enorme, ma meglio avere un rimpianto enorme, ma soprattutto far vedere e collaudare quei ragazzi come Pascolo, Abbas, Pontecchio, per capire se questi l'anno prossimo sono una base da cui ripartire, piuttosto che non avere rimpianti e tornare nella mediocrità che si è vista fino a questo momento. Insomma, questa Eurolega deve servire qualcosa, e secondo me l'unica cosa a cui può servire oggi, più che cullare grandi idee di playoff, è quello di vedere se questi ragazzi hanno le caratteristiche per star lì. Hai ragione, però poi, per chiudere, Luca, scatterà anche fatalmente il gioco delle responsabilità. Che cosa non ha funzionato, al di là dell'affare Gentile, al di là degli screzi anche pubblici, non solo privati, che ci sono stati in questa stagione? Ma lì chiaramente è stata una stagione sbagliata sotto tanti punti di vista, non direi tanto nella costruzione della squadra, perché forse fin dall'inizio manca un lungo, ma questo non giustifica quello che è successo dopo. E lì Milano però non è mai stata brava nell'analisi delle responsabilità, quindi deve fare anche la dirigenza un salto in avanti, un salto di qualità, perché negli anni passati spesso si è andati a peccare dei capri espiatori piuttosto che sistemare le situazioni come andavano sistemate. Grazie Luca, grazie, grazie a voi. Un abbraccio a Luca Chiabotti, grazie mille. Chiabotti, grande amico. Carlo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, ragazzi. Di cosa parliamo? Parlare di calcio è bellissimo. Sì, perché parlare di sport è bellissimo. parlare anche di altre cose è pure divertente. Diciamo che calcio forse per questione tradizionale direte una copertura nel nostro paese un po' più ampia, certamente. Se poi sta parlando con uno che è un motociclista sfegatato, quindi no, ma il calcio è bello di per sé, cioè perché rappresenta una sorta di sapere totale, tutti sanno di calcio, sì, a prescindere dal percorso scolastico che uno abbia fatto, è bellissimo. E poi è uno degli argomenti più dibattuti del nostro paese insieme alla politica, non scopriamo niente di nuovo, poi è bello. La politica irrita, lei è tifoso, bene, ti rilassa. Mi scusi se le parlo addosso, ma lei è tifoso atalantino? Oddio, tifoso, io non sono uno di quelle fegatati che si mettono lì e praticano la diceria dell'untore, come si dice. Per cui, ripetendo una sua frase, sperando che questa volta io la dica giusta, sic stantibus rebus, sì, io volevo dire questo. Dico, quest'anno si verificherà, ecco perché faccio una piccola scommessa, ciò che è successo per il Leicester, ciò che è successo per il Verona, ciò che è successo per la Lazio, per ciò che riguarda la Coppa Campioni, la vince il Napoli. La vince il Napoli? Facciamo questo pronostico per cui io vedo tutta Napoli, provincia e tifosi napoletani sparsi nel mondo in pose, in consulte, compreso Giorgio De Luca. Il Napoli vince, speriamo. Che le devo dire? Speriamo. Sarebbe fantastico. Semplicemente fantastico. Facciamo dunque questa previsione. Andrea, buongiorno. Buongiorno, ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Dimmi. Il Napoli vince la Coppa, il Milan vince lo scudetto. La vedo, sai, io vedo più dura che il Milan vinca lo scudetto piuttosto che il Napoli vinca la Coppa. Posso dire? Sì, no, hai ragione. No, volevo solo salutarvi e dirvi che ieri stavo vedendo l'Olimpia e il Milan. E vedendo l'Olimpia ho detto, vai che stasera è serata di imprese. Però invece il Milan è andata male, mi spiace. Il Milan è andata male, però insomma quest'anno nel raccolto con la Juventus non si può lamentare, no? Compresa l'argenteria alzata nel cielo di Doha. Sì, ieri sera il Milan è andata male, l'Olimpia ha giocato la miglior partita stagionale e questo, come dicevo prima con Luca Chiabotti, da un lato è bellissimo, molto dolce, molto elettrizzante, dall'altro non fa che accrescere grandi rimpianti per quello che poteva essere e che probabilmente non sarà, cioè un playoff di Eurolega su cui io sinceramente avrei scommesso a inizio stagione molto più che sulla Champions League in mano al Napoli. Andrea, grazie, perché adesso abbiamo Sua Maestà Leo Turrini, che voglio coinvolgere su alcuni temi, a cominciare, cioè ce lo scrivono in molti ed è giusto, è cronaca anche, dalla vittoria in Australia, dall'ennesima finale, dalle lacrime di Sua Maestà in peritura Roger Federer. È finita, Roger Federer in finale. Incredibile. È in finale agli Australian Open, continua la favola di Federer. Io mi viene da piangere. Un grandissimo Federer infinito. 7-5, 6-3, 1-6, 4-6, 6-3. A quasi 36 anni Roger Federer raggiunge un'altra volta la finale in uno slam. Che la dire? Sesta qui, la 28esima in uno slam. Che fenomeno. Non so se è riuscito a commuovere anche un cuore di pietra come te, Turrini. Maestro, gente, cosa vuoi? Una volta eravamo io, Sotomayor, Paco Peña, Richard Nixon, Federer, mi sembra 40 anni fa Wimbledon, hai capito? Certo che mi sono commosso. Davvero? Il bello dello sport è quando vecchi fusti riescono ancora a sorprenderti, riescono ancora a coinvolgerti. Guarda, dirò una cosa, tu non eri nemmeno nato. No, non quando Felice Gimondi vinse il suo ultimo Giro d'Italia nel 1976. Non era ancora nato, me lo ricordo anch'io. Dai, aveva 34 anni e sembrava impossibile, no? Perché c'erano già i Moser, i Baronchelli, tutti i ciclisti, Bertoglio, eccetera. La New Wave. Bravo. E lui fece questa cosa meravigliosa, straordinaria. Io avevo 16 anni, mi ricordo che piangevo davanti al televisore e sentivo Adriano De Zan che diceva sulla Pero Corbano, sulla Pero, chi c'è fermo? Sulla Pero Corbano, oggi, certo, non Federer che corre galoppa verso questa sensazionale impresa, ma sicuramente Berdy Ecclestone, lo vogliamo dire? No, Berdy, apriamo Ecclestone, un capitolo, apriamo Berdy un capitolo a sé stante. All'età di Roger Federer, all'età di Roger Federer, all'età di Federer lì, che gioca, e invece Ecclestone è stato parcheggiato su un'area di servizio, sulla Pero Cormano. Ma abbiamo un capitolo a sé stante per l'ex ormai sua maestà, l'imperatore mondiale totale globale della Formula 1, Berdy Ecclestone. Ricordo, eravamo io, Hirohito, Niki Lauda e Berdy Ecclestone al Gran Premio d'Olanda e Jimmy Carter. E c'era Berdy Ecclestone, era già il grande, non di statura, ma di genio senz'altro, boss della Formula 1, del circo delle quattro ruote, a metà degli anni 70. Adesso ognuno può pensare come vuole sull'evoluzione della Formula 1, ma sicuramente questo signore britannico è stato uno straordinario innovatore, perché fu lui all'epoca. Sì, adesso non cantiamo elegie, perché neanche fatte di tutti i colori, quando avevi quegli straordinari pantaloni a zampa d'elefante color caffè latte. Il giudizio è libero. Io però, sai, ho un debole per Berdy Ecclestone per via delle figlie. Da quando ho visto Tamara su Playboy qualche anno fa, ho capito che dovevo stimare di più il padre. No, comunque voglio dire, lui fu quello che a metà degli anni 70 intuì che la Formula 1 poteva diventare un grande spettacolo planetario. Enzo Ferrari, mi ricordo, una volta ne parlai davvero con lui, non c'era Paco Pegna neanche Sotomayor nell'82, e lui mi disse, alla conferenza stampa, disse: Ecclestone è perfetto per gli affari, ma non lo vorrei mai a tavola con me. Una volta, diciamo, esaurite, soprattutto al momento di pagare il conto, volevo è fermo sulla Pero Cormano per sempre Berdy Ecclestone. Però non so se l'hai notato, caro Genta, sì? In Inghilterra e in Germania oggi vari siti web hanno scritto, attenzione, che Ecclestone pensa di fare un campionato alternativo, di guidare a 87 anni una secessione contro i voleri dei nuovi padroni, che sono questo conglomerato americano potentissimo, Liberty Media, e è una voce di dominio pubblico che lui non si rassegnerebbe e vorrebbe, insieme a me, a Raul Castro, al cardinale Fisichella, eccetera, Sottomaiore Paco Pegna, fare un altro. E magari anche a Luca di Montezemolo. Luca di Montezemolo sempre presente nei nostri cuori, che potrebbe essere presente davvero anche in questa iniziativa. Perché tante volte aveva parlato di secessione. Ma stai scherzando? Poi guarda che rispetto a Ecclestone, Montezemolo, che fa 70 anni quest'anno, quindi auguri, fa 70 anni come la Ferrari, tu pensa a coincidenza, è un ragazzino, perché Ecclestone ne ha 87, quindi voglio dire, se Ecclestone progetta scenari straordinari proiettati nell'avvenire, figurati che cosa può fare il presidente col ciuffo a tergicristallo che spazzola di qua e di là. Senti, ma di questi nuovi padroni di Liberty Media, questi nuovi signori della Formula 1 che dicono ogni Gran Premio deve diventare come il Super Bowl, cosa mi dici? Ma ti dico che io vidi un Super Bowl una volta con Dan Peterson, eravamo io, Dan Peterson, Donald Trump, non ancora presidente degli Stati Uniti, Sotomayor, Paco Pegna. No, era un castro. Allora ti devo dire questo: loro, secondo me, che sono, lo diciamo per chi non è magari pratico di cose finanziarie, sono i proprietari del mega gruppo mondiale Discovery, no? I canali televisivi dappertutto, hanno un'intuizione giusta. Perché da quello che vanno dicendo da mesi, vogliono restituire la Formula 1 al pubblico, allo spettacolo, vogliono lavorare molto di più sul rapporto diretto tra la gente, anche quella che fisicamente va all'autodromo, non solo si mette davanti al televisore. No, ma questo è corretto, perché hanno ragione. Il rischio, c'è una distanza abissale tra la gente e la Formula 1. Il rischio qual è? Proprio perché sono americani, però che possono, loro hanno parlato di Super Bowl. Io non vorrei che invece pensassero al wrestling, hai capito? Perché quando dicono ma il divertimento è tutto, allora bisogna poi distinguere, perché magari se ti fanno una carnevalata tipo delle mini mas di Gran Premio di 30 minuti con l'autoscontro, sì, magari qualcuno si diverte, ma non è più la Formula 1, non è più quello. Però c'è un passaggio che potrebbe essere incoraggiante, se è vero, come hanno detto, che vogliono prendere Ross Brawn, famoso direttore tecnico di Benetton Ferrari, della scuderia che portava il suo nome, poi lui ha creato lo squadrone Mercedes, come loro consulente per i regolamenti tecnici. Se hanno quest'idea, vuol dire che, a mio parere, vanno nella giusta direzione, perché Ross Brawn è un uomo, diciamo, proprio da pista. Formula, no? È un uomo di Formula 1. Ecco, che sa di che cosa si parla. Ecco, sarebbe preoccupante se dicessero, ma poi domani facciamo scrivere le regole da Sotomayor, Paco Peña, Gianni Minà, dalla solita compagnia, dalla solita compagnia. Come senti, sono in grande forma. Ah, lo so, ma sei sempre, quando mai tu non lo sei, Turrini. Ma tornando galvanizzato. No, Federer, ma domani potrebbe trovarsi in finale con Nadal che ha Dimitrov davanti. Cioè, sarebbe una finale d'antan, di quelle da vedere, con Paco Peña, Raul Castro. Bravo, gente, così mi piace. Ma una finale Federer-Nadal nel 2017 in Australia è come il ritorno del proporzionale alle elezioni in Italia, hai capito? Eravamo io, Bettino Craxi, Renato Altissimo, Giorgio Lamalfa, Nossa, Occhetto, tutti, hai capito? È così. Però è quello che dicevamo introducendo la riflessione sulla grande impresa di Federer, al di là di tutte le battute. È veramente coinvolgente quando un campionissimo che ha un grande passato dietro le spalle riesce di nuovo ad appropriarsi del presente. Questo, devo dire, è bello. Sì, sì, è emozionante. Se... emozionante. Bravo, se... Non si tratta di essere nostalgici o mielosi, non si tratta di essere melenzi. Ma se fosse Federer Nadal, secondo me devono cominciare la partita con il fatto di Donald Trump al suo ballo inaugurale. My Way di Frank Sinatra. Suonano My Way di Frank Sinatra a Melbourne prima del primo scambio Federer-Nadal. Pensa che bellezza. Ma no, che meraviglia. Mi sta venendo un senso di... Quando io andai a vedere, sai, Frank Sinatra, eravamo io, Mia Farrow, aspetta pure, chi era venuto anche dall'Italia? Sì, c'era ancora anche Alberto Sordi, ci trovammo tutti a vedere il Turrini, uomo dei mille mondi. Io ho ancora un minuto, purtroppo, perché è troppo poco per commentare. Invece, uomo dei mille mondi sportivi, questo Bolt. Siamo in un'altra dimensione, record del mondo, Roberto diretto alle spalle, 9.58 e smanate bene, che hanno corso fortissimo anche il secondo di senso, cioè Tyson Gay. Questo era il 2009, l'inizio dell'epopea di Bolt, poi non per colpa sua, il suo curriculum storico, il suo curriculum leggendario è stato sporcato da una macchina bianca, non per colpa sua ma per colpa di Nesta Carter. Trovato positivo, quindi gli è stata tolta la medaglia dalla staffetta. Era Pechino 2008, io lì c'ero davvero, ma sai, gli hanno tolto un triplete e hanno aggiunto un sospetto in più, perché Bolt non c'entra, la colpa, come hai detto tu, è di Nesta Carter. Poi uno va a vedere e scopre che di velocisti giamaicani negli ultimi anni, tra test nuovi e test rifatti su antiche provette, ne hanno beccati tanti. Io continuo, fino a prova contraria, a credere nella buona fede di questo personaggio straordinario, campione meraviglioso. Certo, se vuole il terzo triplete deve cambiare idea, andare come Federer a Melbourne a fare anche l'Olimpiade di Tokyo 2020. E questa è la migliore. Adesso Carl Lewis è tornato l'unico ad avere 9 ori olimpici nell'atletica leggera. Chissà che possa essere la molla, ma la vedo dura. Preferisco così tempo. Per Federer, grande per martello. Passa per tutti. Ciao Leo Turrini, grazie. Grazie, ti maestro, abbraccio. Buon weekend. Ti abbraccio, Leo Turrini, così come ringrazio Giorgio De Luca, il nostro autore, Edoardo Lavezzari in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani, ragazzi.